Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Quando si dice conto alla rovescia, sabato 8 settembre 2018, 1:33 del mattino, e non per mettere pressione alla protagonista che è qui nei nostri studi ai nostri microfoni, ma manca esattamente una settimana a un evento molto importante, e abbiamo il piacere di avere con noi, dicevo, la protagonista per raccontarci qualcosa di quello che succederà. Una ragazza che sicuramente si è fatta notare questa sera, perché girava con un vestito rosa molto shocking, con questo bellissimo, com'è che si chiama? Quello chiamate scopino, in modo così molto confidenziale, spolverino è il modo giusto, anche questo rosa, e poi un cappello poco appariscente come quelli dei giullari di vecchia data, però con la torta, diciamo, di candeline, va là, visto che ci sono dei minorenni all'ascolto. E la conosciamo meglio, benvenuta. Buonasera. Oh, benvenuta, come ti chiami? Simona. Simona, da dove vieni? Valle Camonica. Val Camonica, grazie, perché prima mi ha detto un nome che al momento non ricordo, che è Artogne. Artogne. Artogne cos'è? Un paesino, immagino, sì, della Val Camonica. Quanti abitanti fa più o meno? 12? 3.000. Ah, 3.000, pensavo 12. Ah, 3.000 abitanti, non male. Ma quanto è su come altitudine, più o meno? Cioè, molto, molto in alto. Collinare. 700. Collinare, ah, 700 metri. E quindi questa ragazza è scesa da Artogne sul pianeta Terra per venire a festeggiare insieme a noi cosa? Dici un po', anche se secondo me un po' si è già capito. Esatto, il classico addio al nubilato. Il addio nubilato, che però devo dirti che in vari anni di militanza qui al convento e qui alla radio è difficile vedere a una settimana dal matrimonio. Cioè, ormai è cambiato un po' il modo di viverlo, perché tanti anni fa sì, addirittura il giorno prima, la notte prima, pochissimi giorni prima, mentre adesso lo si organizza con mesi e mesi d'anticipo. È uno dei pochi casi in cui lo si fa a una settimana dal lieto evento. È stata una cosa casuale, organizzata? No, organizzata. Ok, magari per incastrare magari le possibilità di tutti, sì. E la presenza di tutte, che immagino sia la cosa fondamentale. E, tra l'altro, le amiche hanno celebrato anche, visto che abbiamo parlato del vestito della nostra Simona, hanno celebrato dal punto di vista cromatico la gioia per il matrimonio della nostra Simona, indossando delle magliette nere a lutto, e questo per dare un messaggio chiaro a Simona. Il messaggio virgolettato è: siamo felici per te. Questo è quello che volevamo dire anche ai nostri microfoni, per rendere partecipi tutti. No, vedo che c'è una scritta. Ah, ok, ti avevamo detto di prendere un mojito, ma ha sbagliato a ordinare, hai preso un marito. Chi è il futuro, il fortunato, insomma? Si chiama Mario. Si chiama Mario, e anche lui pascola super. Ah, ok. Ma cosa si fa lì nei vostri paesi? Cioè, c'è il cinema, ad esempio, no? Sì, anche. Sì, però ci ha pensato, perché ci stava cercando di capire. Cioè, c'è vita o dopo le nove di sera? Tutti a nanna? Tutti a nanna. No, scherzo, chiaramente si prende. Beh, ci si innamora tanto, però, perché c'è tempo per socializzare, per stare insieme, quindi ci si innamora tanto. Non è ancora arrivata la televisione, vedi, vedi. Pensa. Fanno tanti video. Vedi, vedi, è giusto così. Pensa che noi siamo all'ultrapiatto, invece. Cioè, ormai la televisione è tipo così, ha uno spessore di 10 cm e loro nemmeno ce l'hanno. No, bello, se bello. No, abbiamo quelli ancora col tubo catodico. Oh, vedi, vedi, vedi. Beh, ma vedrete che ci arriverete anche voi. Tra l'altro, dovete sapere che non sono solo qui per festeggiare il futuro matrimonio di Simona, ma anche il fatto che abbiano scoperto la ruota da una settimana. Ci tenevamo a dirlo, insomma, hanno fatto questa bellissima scoperta e quindi sono venute qui a raccontarcela. Simona, però, mi sembra, lo so, pensa che sono normalissimo, cioè questo è tutto normale, me ne preoccupo anch'io a volte, non ti preoccupare. Dicevo, Simona, vuoi presentarci chi ti accompagna stasera? Certo. Dai, dai, dai, che mi sembra giusto, vai. Ci sono le due testimoni, la mia collega di lavoro, sì, mia sorella e la sua amica. Ok, ok, io intanto stavo curiosando, però aspetta, dici anche i nomi, oltre, certo, oltre ai rapporti di parentela con te. Marta, Giada, Valentina, Alessia e Sara. Ok, siete le sole o c'è qualcuno disperso all'interno della sala? No, persone. Ah, siete solo voi, quindi anche molto intimo come, come addio nubilato. No, dicevo, leggevo dietro la maglietta che avevi un po' di penitenze da fare. Non sto a leggerle tutte perché sono lunghe. Volevo solo capire quante ne hai fatte, quante no, cosa ti manca, sette. Dove possiamo aiutarti? Sette, ma sette, sette sono tante. Ti serve un ragazzo di nome Mario da baciare, ma... C'è, ce l'ho, al bar. Al bar? Al bar. Al bar, ok, vai. Seconda? Seconda, cos'è che ci serve? Vabbè, questa possiamo farla in diretta, no? Fingere un orgasmo. Ah. Eh beh, io, cioè, nel senso, io do microfoni e spazio, dipende dal come dire, dal soggetto. Lasciamo perdere. Ah, ha detto in privato, in privato. Esatto. In privato. Fatti dare un preservativo dallo speaker, ce l'hai? No. Io io calcolo, io uso le cose astrali, i presagi astrali, così sono tranquillo. Infatti ho il telefono che squilla sempre di gente che mi aspetta in vari ospedali in giro per il mondo. Però non mi presento mai. A un tavolo di ragazzi e raccontargli la sua esperienza sessuale più strana. Beh, questo è facile, sono 500 persone che aspettano questo momento. E basta, spolverare il pacco. Ecco, dai, spolvera il pacco lo speaker. Bellissimo momento. Bellissimo momento, molto tenero. Fatto, assolutamente. Etichettato come fatto. Ok, allora Simona, in chiusura vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare qualcuno? No, sono tutte qua. Beh, anche fuori di qui, cioè nel senso, è bello che però magari approfittare del microfono per dire qualcosa. Sono contentissima così. Viva niente. L'amore, viva l'amore, e niente, Mario nemmeno lo saluta, okay. Nemmeno se lo ormai. Esatto, ormai nemmeno se lo ricorda più. A proposito, da quanto tempo vi conoscete? Da 4 anni. 4 anni? Bene, dai, si vede che c'è passione, c'è sentimento, nemmeno ti ricordi di salutarlo, quindi figurati che c'è. È così, è molto forte il sentimento che vi lega, mi fa piacere vederlo. Allora, grazie mille Simona, si scherza chiaramente. In bocca al lupo per. I 7 giorni che mancano, o 6 giorni che mancano, e gli ultimissimi preparativi. E grazie mille alle amiche per averla portata qui, fin dalla Val Camonica, e per averla portata qui nei nostri studi. Alla prossima e buon divertimento! Ciao ciao! Ciao.